Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata, la prima della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente mi dispiace ripartire da dove ci siamo lasciati la settimana scorsa, torneremo e ci sono nuovi aggiornamenti sulle previsioni dei danni economici del coronavirus. Chiaramente in questo momento tutta l'attenzione sui contagiati, sui morti, che hanno ampiamente superato quelli della SARS, ma continuano ad arrivare notizie, diciamo così, non entusiasmanti, perché addirittura non c'è solo la sospensione della produzione di grandi colossi. Per esempio Nissan Motor ha deciso di sospendere per 2 giorni la produzione di uno stabilimento in Giappone, e di questo parleremo in apertura. Perché in Giappone? Perché quello che sta capitando non è solo il crollo o calo della domanda cinese o dei turisti cinesi, come abbiamo spiegato molte volte, e quindi la cancellazione di fiere, della presenza a fiere internazionali piuttosto che turismo d'affari, turismo diciamo di diletto, o la presenza a fiere ed eventi in Cina. Quello che sta capitando è che l'assenza di personale anche nei porti e la chiusura delle fabbriche cinesi, la chiusura prolungata delle fabbriche cinesi, sta facendo venir meno, o rischia di far venire meno, l'approvvigionamento delle componenti. Nello specifico, siccome l'area di Wuhan era l'area, l'abbiamo spiegato molte volte, è l'area a maggior produzione di autoveicoli in Cina, la Detroit cinese, la Nissan, per esempio, sospenderà per 2 giorni la produzione in un suo stabilimento in Giappone, perché le sono venute meno le forniture di componenti dalla Cina, e quindi la fabbrica che produce i modelli Serena e X-Trail chiuderà temporaneamente venerdì e lunedì. Dall'altra parte invece Foxconn, che è il colosso mondiale degli assemblatori di iPhone, potrebbe spostare la sua produzione in India, in questo caso proprio per le difficoltà di continuare nelle sue fabbriche in Cina. Ora è solo un'ipotesi, loro hanno un impianto enorme a Shenzhen che dovrebbe riprendere la produzione degli iPhone, ma con una forza attiva solo del 60%, quindi solo 6 dipendenti su 10. C'è un altro sito enorme a Zhengzhou, perché è responsabile della maggior parte degli assemblaggi dell'iPhone 11 e dell'iPhone 11 Pro. Nel frattempo, andando avanti sul bollettino, anche Airbnb ha sospeso tutte le prenotazioni su Pechino dal 7 al 9 febbraio. La Cina continua a criticare l'Italia per le misure, per aver sospeso tutti i voli. Speriamo che l'Italia possa valutare la situazione in modo obiettivo, razionale e basato sulla scienza, rispettare le raccomandazioni autorevoli professionali dell'OMS e astenersi dall'adottare misure eccessive. Per carità, faccio notare però alla Cina, con massimo rispetto, che diciamo, per affrontare una situazione in modo obiettivo e razionale forse sarebbe servito un comportamento del governo cinese, non adesso, ma con i primi focolai, un pochino più trasparente. Per giorni ci siamo sentiti dire che la cosa era molto contenuta, mentre si approntavano ospedali da migliaia di posti letto. Insomma, è tornato a parlare il presidente cinese Xi Jinping, che anche lì è stato zitto e silente per molti giorni. Diciamo che la Cina si sta muovendo bene secondo molti osservatori, però c'è stato qualche problema nel flusso informativo soprattutto all'inizio. Comunque c'è stato oggi anche un vertice interministeriale sull'emergenza coronavirus dal punto di vista economico, questo nel giorno in cui l'ufficio parlamentare di bilancio, qui veniamo all'Italia, ne parleremo nella seconda ora del programma, stima forti rischi a ribasso per il 2020 nella crescita economica, sia per l'effetto del coronavirus, sia per una instabilità geopolitica, in particolare nel Medio Oriente, nonostante riconosca come c'è stato un allentamento delle restrizioni sulle politiche commerciali, c'è cioè l'accordo Washington-Pechino sui dazi e l'avvio di una Brexit in condizioni ordinate, quindi dialogante con l'Europa, sono due elementi positivi rispetto o migliorativi rispetto al panorama precedente. La crescita comunque sarà modesta anche quest'anno, più 0,2%, non oltre, e ben distante, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, dallo 0,6% stimato dal governo. Allora, sul governo, per carità, faccio presente al ministro Gualtieri come siamo entrati nel 2020, perché nel 2019 la produzione industriale, anche qui, nessuno sta dando la colpa al ministro Gualtieri, perché il governo si è insediato a fine agosto, inizio settembre, però che vi sia stato un problema, e non è un problema solo italiano, l'abbiamo continuato a dire, c'è un rallentamento forte in Germania, che l'Italia si becca essendo il primo fornitore della Germania, o meglio essendo la Germania il nostro primo paese per export, soprattutto nella meccanica, per cui non è un problema del governo, piove governo ladro, però è giusto che la classe politica si renda conto che se abbiamo fatto un meno 1,3% nel 2019 come produzione industriale, è il dato peggiore da 6 anni a questa parte, quindi dal 2019, è verissimo che anche la produzione industriale tedesca ha fatto meno 3,5 a dicembre, e meno 6,8 rispetto a un anno prima, quindi un dato molto molto pesante. È vero che anche la Francia ha fatto un meno 3% a dicembre rispetto al dicembre del 2018, quindi i nostri principali mercati di sbocco sono in frenata brusca, ma ecco perché si dice le politiche poi devono prevedere e capire a livello europeo, che è chiaro che si è fermato l'export tedesco non solo, o è rallentato molto l'export tedesco non solo, e questo ha portato a una frenata a catena, però forse è il caso di ragionare su politiche di investimento, lo so che sembra un disco rotto, ma io continuo a insistere su questo, e prendere atto che se veramente facciamo 0,2 e non 0,6, non per colpa necessariamente nostra, il coronavirus non è colpa nostra, lo scontro tarifario, dazi, vedremo cosa faranno gli Stati Uniti con l'Europa, non è colpa nostra. Il rallentamento della Germania non è colpa nostra, ma detto questo, se sei un'economia integrata, prendi atto che anche se i fenomeni sono esterni, devi ragionare su uno scenario mutato, ed è inutile continuare a mantenere la previsione allo 0,6%. Parleremo in apertura di questo, oltre che nella seconda ora, per quello che riguarda soprattutto la produzione di autoveicoli, perché nel dato sulla produzione industriale pesa moltissimo in Germania come in Italia e anche in Francia il dato del calo della produzione di autoveicoli, meno 13,9%, è il calo più forte dal 2012, ed ecco perché complessivamente va male tutta la produzione industriale. Per quello che riguarda un altro dato che ha a che fare con l'Italia, cito i turisti italiani, perché non il dato sul turismo che è andato bene, ma se si va a vedere come si sono mossi gli italiani nel 2019, hanno fatto un meno 9% nei viaggi, ed è la prima volta che c'è il segno meno dal 2016. In calo sia i viaggi per vacanze, meno 8,5%, che per lavoro, meno 12%. E questo non ha nulla a che fare, chiaramente, con i problemi del turismo legati al coronavirus, il dato sul 2019. Di questo anche parleremo. Per quello che riguarda l'ultima notizia, quella in breve l'ho quasi finita, a questo punto diamo lo stacco comunque per la borsa, faccio notare che è scontro duro tra i sindacati e Unicredit. Unicredit ha presentato la settimana scorsa degli ottimi dati di utile e ricavi, e la borsa l'ha premiata, però oggi ha confermato un piano di 6.000 esuberi e 450 filiali chiuse tra il 2019 e il 2020. I 6.000 esuberi sono solo in Italia, non sono su tutte le controllate del gruppo, tutte le filiali del gruppo anche all'estero. I sindacati dicono Unicredit continua ad avere un atteggiamento inaccettabile. L'amministratore delegato, questa è la nota della Fabi, Jean-Pierre Moustier, si illude di poterci squadernare un piano a scatola chiusa, di fatto senza discutere dei numeri. Staremo a vedere come va anche questa trattativa. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, qualcuno mi sta scrivendo: il problema del coronavirus non sono i morti, sono l'economia. Adesso cerchiamo di non essere troppo cinici. È vero però, se ho capito il messaggio dell'ascoltatore, che le centinaia di morti, per carità, fanno impressione, ci mancherebbe, ma poi molti li confrontano con i morti ogni anno per influenze e batteri molto più comuni. Quello che a mio avviso è ormai inequivocabile, anche rispetto alla SARS, che tutti hanno usato in maniera un po' improvvida come paragone, è la reazione, il blocco dell'attività commerciale, che non era mai avvenuto per la SARS. C'erano stati controlli, per carità, ci mancherebbe, ma insomma qui stiamo bloccando non solo i voli per i civili, non solo ci sono decine di milioni di cinesi che non escono di casa, ma tutta la parte delle forniture, vuoi perché manca la manodopera nelle fabbriche, vuoi perché, come ci spiegavano i nostri ospiti dalla Cina, anche la stessa attività portuale è rallentata dall'assenza di persone, quindi le merci le devi imbarcare poi sui cargo per farle trasportare. L'effetto più clamoroso è stato questo, sono d'accordo, se prendiamo, ripeto in maniera un po' cinica, il paragone con morti di altre epidemie, ma soprattutto per elementi batteriologici, il che non vuol dire sottovalutare, adesso abbiamo scoperto che l'incubazione è più lenta del previsto, non vuol dire sottovalutare la portata virologica del coronavirus. È che in questo momento sicuramente la prima a pagare le conseguenze è l'economia mondiale. Vediamo le borse. Le borse oggi sono tutte piatte, attendiste, si potrebbe dire. Milano è invariata, Parigi meno 0,30, Francoforte meno 0,20, Londra meno 0,30, Dow Jones più 0,20. Euro su dollaro a quota 1,09. Exor va bene, più 4%, bene anche Nexi, più 3,25, Azimut più 2,80, Moncler più 2,30, Banca Generali più 2,11, Prismian più 1,70, Unipol più 1,20, ST Microelectronics più 1%. Chi perde? Il gruppo Fiat invece, non Exor ma il gruppo Fiat sì. Case New Holland, CNH Industrial meno 2,50%, Fiat meno 1,70, e poi 1,5% lo perdono Saipem, l'1% Telecom. Perché la controllante va in maniera così diversa, diametralmente opposta dalle controllate? Beh, perché su Exor ci sono tutte le voci di una presunta trattativa con i francesi di Covéa per la cessione di Partner Re, che è il gruppo di riassicurazione americano, un valore stimato intorno ai 9 miliardi di dollari. Quindi, siccome la Partner Re fa capo Exor, il titolo ci guadagna parecchio, è il migliore tra quelle maggiori capitalizzazioni. Invece Fiat e Case New Holland si stanno confrontando con i dati del mercato e anche della produzione industriale, di cui parleremo pochissimo, anzi praticamente ne parliamo subito dopo aver dato due elementi. Uno riguarda Azimut, molto forte oggi in borsa, ci sono i conti del gruppo Azimut, raccolta netta positiva per 573 milioni, ha detto l'amministratore delegato, presidente del gruppo, Pietro Giuliani. I gufi e gli scettici continuano a far perdere i soldi ai loro clienti, andando avanti a shortare, cioè essere molto corti sulle posizioni, o sottovalutare il valore del lavoro che stiamo facendo. Noi invece abbiamo 450 milioni da investire nell'economia italiana. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Mi scrive un ascoltatore: sì, purtroppo devo confermare, ho fatto un giro a Venezia sabato, impressionante, tutti i negozi delle grandi firme deserti, neanche un turista cinese in giro. Beh, in effetti di questo stiamo parlando, e sappiamo che a Milano, Roma e Venezia, ma anche immagino Firenze, i principali, la fetta più importante di acquisti nei negozi delle grandi firme italiane, non solo, venivano fatti proprio dai cinesi. Comunque, andiamo sul primo tema, cioè cerchiamo di capire non solo il perché di questo fortissimo rallentamento della produzione di automobili nel mese, nell'anno 2019, ma cosa stia capitando come effetto del coronavirus e quindi mancato approvvigionamento di componenti. Lo stesso Fiat aveva messo in guardia, l'aveva fatto Manley dicendo attenzione, aveva già chiesto ai dipendenti di posticipare e riprogrammare viaggi di lavoro in Cina, e poi la Fiat Chrysler gestisce due impianti di assemblaggio in Cina, uno a nord-ovest di Hong Kong, Guangzhou, l'altro a Shenzhen, nel sud-ovest di Wuhan, e Fiat gestisce anche altri impianti in Cina dove lavorano i suoi fornitori. Manley aveva detto che c'era già il rischio, l'aveva detto il 20, a fine gennaio, del blocco di un impianto, di uno degli impianti del gruppo Fiat Chrysler a livello europeo. Teniamo però, se ci riusciamo, separati i due temi. Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, il principale centro di studi sul mondo dell'auto in Italia. Buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, Quagliano, la prima cosa riguarda il dato del 2019, perché, lo dico, insomma, il contributo principale al dato negativo sulla produzione industriale, la peggiore da 6 anni, meno 1,3%, con la produzione industriale che ha fatto meno 3% a dicembre anche in Francia sul dicembre 2018 e ha fatto meno 6,8% in Germania sul dicembre 2018. L'apporto principale a questo ribasso lo danno gli autoveicoli. Solo in Italia la produzione nel 2019 è calata di quasi il 14%. E Gianprimo, questo prima del coronavirus, è ancora l'effetto del processo di trasformazione che coinvolge soprattutto la Germania, ma non solo, verso nuove forme ibride maggiormente sostenibili di motorizzazione, quindi non dico l'abbandono del diesel, ma tutta la trasformazione verso, diciamo, nuovi modelli? Sì, è essenzialmente questo processo che è cominciato male, con una persecuzione ingiusta al diesel, è stato fortemente penalizzato, mentre avrebbe ancora ampie possibilità e ancora ampie possibilità di rendere un ottimo servizio a chi li utilizza. Ma si è voluto calcare fortemente la mano nella persecuzione del diesel e quindi ci sono dei vuoti di produzione che non sono ancora colmati da auto elettriche, anche se ci saranno quest'anno molte auto elettriche nuove che verranno lanciate e anche molti modelli interessanti. Però si è voluto accelerare la transizione e quindi siamo in una situazione di difficoltà. E quindi secondo le stime che voi avete, questo processo di transizione al netto del coronavirus durerà anche nel 2020? Cioè il fatto che sia stato molto penalizzato il diesel? Prego. Sì, perché la politica sta procedendo con dei divieti di emissione, divieti di circolazione, penalizzando molti cittadini, molti automobilisti che hanno ad esempio un diesel e non vedono con quale altra vettura sostituirlo, mentre non sta prendendo provvedimenti per sostenere questo processo, sostenere non tanto la produzione ma sostenere i cittadini che devono passare dalla loro auto giudicata ormai troppo inquinante ad altre soluzioni, e quindi la gente non ce la fa. E talvolta si arrabbia pure perché ci si dimentica che il movimento del gilet verde, del gilet giallo in Francia è partito proprio quando qualcuno, il presidente della Repubblica Francese, minacciava di aumentare le accise sui carburanti tradizionali. Quindi la gente è sotto tensione per questa situazione e siamo su una strada abbastanza pericolosa dal punto di vista anche da quello sociale. Allora, sì, ci porterebbe troppo fuori. Io ritengo che vi sia un po' di ipocrisia anche in questo blocco di auto. Per carità, volete bloccare le auto, poi scopriamo che in realtà sulle polveri sottili e sull'inquinamento il principale responsabile è il riscaldamento, che cambia pochissimo quando blocchi le auto e via così. Detto questo, però, c'è una cosa che a me piace poco del blocco auto. Quando tu blocchi le Euro 4, per esempio, vai a bloccare le auto delle fasce sociali più deboli, parliamoci chiaro. Cioè, poi uno magari ha un mega SUV e lo parcheggia pure in doppia fila, no, questo è una battuta, ma insomma, e non viene bloccato, di solito sono le auto delle fasce sociali più deboli, che non vuol dire essere contro il blocco dell'auto, è farlo non per farlo. Tutti i dati che noi abbiamo visto hanno dimostrato che l'impatto del blocco auto, e soprattutto quando riguarda i modelli più vecchi, sull'inquinamento complessivo è bassissimo, per cui non vorrei che fosse solo un disagio, creare un disagio sociale per dare la sensazione di fare qualcosa. Detto questo, Gianprimo, la situazione voi la vedete in fase di transizione critica anche per il 2020. Dopo il metodo e la pubblicità, vorrei capire, all'interno di questa fase già molto delicata e molto debole della produzione di auto, come impatterà il coronavirus. Qui per ora stiamo vedendo difficoltà di approvvigionamento della componentistica, e uno potrebbe dire vabbè, ma se il coronavirus viene gestito ci sarà un problema, forse qualche tensione nei magazzini, nelle scorte, però poi le scorte le vai anche a ripristinare in maniera abbastanza veloce. Vorrei capire se questa è la vostra previsione e qual è lo scenario anche peggiore che potete immaginare. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Gianprimo Quagliano, intanto dammi una stima sul 2020, però al netto del coronavirus, cioè a dicembre il mondo dell'automotive stimava un 2020 ancora in transizione, con le difficoltà sul mercato diesel, senza che sia avvenuto, diciamo così, il rimpiazzo delle motorizzazioni ibride o elettriche, e che stima avevate sull'anno in corso prima del coronavirus? Pensavamo che parliamo dell'Italia, che le immatricolazioni superassero finalmente la soglia dei 2 milioni di unità. L'anno scorso erano arrivati a 1.916.000. Quindi un po' questo, sì, ammesso che il PIL reggesse, ammesso che non ci fossero particolari inconvenienti che invece si stanno verificando. Allora, veniamo agli inconvenienti che si stanno verificando. Ho capito bene o la variabile temporale è fondamentale, tutto per voi? C'è un conto per voi, per il mondo che tu studi, un conto è il rallentamento nell'approvvigionamento di componentistica, che già c'è, perché ricordavo la Toyota che ha posticipato la riapertura degli impianti in Cina, la Nissan che ha sospeso la produzione in un suo impianto giapponese perché non le stanno arrivando non gli sta arrivando la componentistica dalla Cina, e la Fiat che ha chiesto ai dipendenti di posticipare o riprogrammare viaggi di lavoro, e potrebbe bloccare uno stabilimento in Europa. Ma è il tempo la variabile fondamentale? Cioè per ora si sta solo gestendo un ritardo negli approvvigionamenti e un rischio scorte? No, io non credo che ci sia effettivamente un rischio scorte, anche perché ci sono alternative ai componenti cinesi. Il rischio vero è il rallentamento dell'economia mondiale che può venire da questa vicenda del coronavirus, e allora questo può impattare forte e quindi con tutto che ne consegue in termini professionali. No, io non so dove tu sia, ma ti stiamo perdendo. Aspetta che riprendo un attimo la linea, non capisco perché. Sono a Milano però. Ho capito, sarai pure a Milano, ma sembra che tu sia, capito, a Wuhan, e non te lo auguro. Allora, dicevi, non ritieni che vi sia un problema con la componentistica, perché si possono fare approvvigionamenti da altre parti, ma il timore vero è un rallentamento complessivo e quindi un calo della domanda e domanda di auto nuove, di nuove immatricolazioni? Esatto, questo è il problema perché ci sono già c'è già un rallentamento della congiuntura. Se a questo si aggiunge un forte fattore di freno che viene dal coronavirus, speriamo che non sia così, ma se dovesse continuare, allora la situazione diventa veramente difficile. Senti, mi chiedono gli ascoltatori, però, se è vero che sulla componentistica uno può approvvigionarsi altrove, perché in primo luogo i marchi giapponesi, ma non solo, stanno mettendo le mani avanti così tanto, bloccando gli impianti perché gli mancano le componenti? Beh, i marchi giapponesi sono quelli in Giappone naturalmente, come anche Hyundai che produce dalla Corea del Sud, sono quelli che si approvvigionano più frequentemente, più intensamente dalla Cina, anche per una questione di distanza, perché sulla componentistica gioca molto anche il problema peso che incide sui trasporti. Infatti in Europa la componentistica cinese utilizzata è soprattutto la componentistica elettronica, che pesa poco e ha poco volume. Ma a livello mondiale il problema della componentistica cinese, che potrebbe venir meno, secondo me non è gravissimo. È gravissimo, potrebbe essere invece grave la questione del rallentamento dell'economia mondiale. In un settore che comunque, come tu dicevi, si sperava risollevasse un po' la testa, parliamo dell'Italia, sulle immatricolazioni. Qualcuno mi dice, ma lei non può augurarsi immatricolazioni continue, le città sono al collasso. Allora, non è vero, perché le città sono al collasso, ma qui non si tratta di aggiungere nuove auto a quelle che già circolano, si tratta di sostituirle con auto più efficienti, più economiche e soprattutto più sicure. Sì, sono d'accordo con te, però che se si vuole agevolare una trasformazione verso auto più sostenibili, diciamo così, forse bisognerebbe iniziare con qualche incentivo all'acquisto, come si è fatto per in tanti casi quando si andavano a scegliere apparecchi o comunque si facevano acquisti di carattere più sostenibile, quindi più verso quella che si chiama economia green. Non mi sembra che questo sia allo studio del governo, onestamente. È vero che molte costano, sono d'accordo, sono anche d'accordo che qui si tratti soprattutto di tasse di sostituzione, non di aumentare il parco macchine. Poi vedremo quello che arriverà anche dal car sharing, però in questo momento mi sembra di poter consigliare un po' di prudenza, perché ancora non siamo in grado di capire esattamente l'impatto sull'economia globale del rallentamento che arriverà dal coronavirus. Abbiamo visto che comunque in Cina a questo punto l'inflazione, il dato è di oggi, l'inflazione va al più 5,4% contro il 4,5% di dicembre e contro il 4,9% atteso dai mercati. Perché questo? Beh, perché inizia a esserci pressione sui prezzi, anche qui sugli approvvigionamenti. La carne di maiale in Cina ha fatto più 116% di prezzo a gennaio su gennaio del 2018, e questo per effetto della peste suina. Le verdure comunque hanno fatto più 17%, e qui non c'è peste suina, qui c'è difficoltà nell'approvvigionamento interno alla Cina. Carni di manzo, agnello e pollo hanno fatto tra il più 10% e il più 20% rispetto a un anno prima, e questi sono già effetti del coronavirus. Grazie intanto anche a Gianprimo Quagliano. Adesso andiamo sul traffico e poi restiamo in tema, diciamo, di coronavirus, ma non tanto sulla pipeline, sulla catena del valore e della produzione di automobili, quanto sul fatto che lo si possa introdurre anch'esso come un elemento di stress quando si fanno gli stress test. Ed è questo il modo in cui introduco l'appuntamento di ogni lunedì con Alessandro Plateroti, dietro la notizia, dopo il traffico, però 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Dietro la notizia. Eccoci di nuovo con l'appuntamento, come ogni lunedì, con Alessandro Plateroti, editorialista sulle 24 ore. Alessandro, buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti. Dicevo, due giorni fa sono partiti gli stress test che molti ascoltatori ricordano, conoscono, perché furono quelli fatti a suo tempo dalla Banca Centrale Europea sulle banche per capire come avrebbero reagito come reagirebbero le principali banche dell'area euro di fronte a un insieme di eventi esterni non prevedibili, cioè non l'attività ordinaria. Sappiamo anche molto criticati, perché gli stress test non riuscirono però a individuare negli anni passati crisi bancarie, anche italiane, che poi si verificarono. Alessandro, non è per stare sul tema e fare tutto nebbia un fascio, però vorrei capire, visto che sono partiti due giorni fa e sappiamo che gli stress test per loro definizione si concentrano nel dire, bene banca, tu vai così, ma come andresti nel caso di un crollo del debito, del valore del debito, esatto, del tuo paese, uno spread in aumento, cioè tutti valori, no, tutti eventi non in quel momento prevedibili. È entrato anche l'elemento sistemico mondiale, coronavirus. Esattamente, questa è la grande novità di quest'anno. Gli stress test sono partiti 2 giorni fa e dico subito, quelli del passato, ogni volta che arrivavano verso la conclusione, hanno provocato un terremoto borsistico sui titoli bancari, perché il mercato percepisce le nostre banche più deboli degli altri, quindi noi siamo quelli che si sono opposti di più a questi stress test, diciamo sanguinolenti, perché certo, con questi tipi di caratteristiche. Beh, la risposta, quello di quest'anno sarà il più duro nella storia. Non è mai stato prefigurato uno scenario di questo tipo dalle autorità europee bancarie e sembra disegnato veramente, tailored in inglese, sul caso del coronavirus. Per quale motivo? Perché loro mettono al centro degli stress test quale può essere l'impatto finanziario e creditizio di uno shock che deriva sulla fiducia, ma da fattore esterno a quello finanziario, delle famiglie e degli investitori. Beh, vi viene in mente qualcosa a questo periodo? Naturalmente questo fa subito pensare a un'idea di coronavirus. Abbiamo già visto le reazioni a caldo, quali sono state e quelle che vedremo, perché qui è un problema di fiducia oggi più che di malattia. Siamo tutti preoccupati e questo sta frenando gli affari. Ma vi do qualche indicazione. La BCE, l'EBA poi, l'autorità bancaria, farà un test alle nostre banche come alle altre, prefigurando questo scenario. Una contrazione del prodotto interno lordo europeo del 4,3% di qua al 2022. Un tasso di disoccupazione in Europa che sale al 3,5%. I prezzi delle case, i prezzi soprattutto quelli del mercato azionario, che cadono di qui al 2021 del 25%. Ora voi potete immaginare che uno manca scenario, solo le cavallette, però. Esatto. E fra l'altro nelle economie emergenti, e qui parliamo, vediamo nuovamente l'effetto del virus, addirittura per loro prevedono un calo delle attività finanziarie del 40%. Allora, che cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare che la BCE si sta preparando a guardare i peggiori scenari che possono aspettare il mondo dell'economia e del credito in Europa. Scenari che sono molto duri e che sicuramente possono dare grosse preoccupazioni non solo alle nostre banche, ma anche ai nostri correntisti e investitori, laddove emergessero delle grandi fragilità. Diciamo che in questo senso c'è stato un allentamento della morsa della BCE. In che termini? Non saranno automatiche le punizioni per quelle banche che non passano gli esami. Se vi ricordate, negli anni precedenti, subito dopo gli stress test, scattavano le richieste degli aumenti di capitale, quella palla di neve che diventava poi una valanga sostanzialmente. Questa volta l'EBA ha deciso di non far scattare immediatamente le bocciature, gli esami di riparazione, o chiamateli come volete, correttivi, però attenzione, anche qui c'è un po' il trucco. Girerà tutti i dati all'autorità che è competente per queste cose. Quindi è ovvio che per le nostre banche servirà un test molto molto duro, come per le altre banche europee, in un momento in cui, e questo fa anche impressione, lo dico, perché noi tante volte abbiamo lamentato il fatto dei tassi sotto zero, che hanno un impatto, anche le banche lo dicono, no? Loro prevedono che questi tassi sotto zero siano un elemento catalizzatore della sfiducia del sistema finanziario. Dopo che sono stati loro a farli, quindi questo è un altro un po' un paradosso. Ecco, e in questo modo si capisce che anche la Banca Centrale Europea, o meglio l'autorità bancaria europea, nell'andare a fare gli stress test individua come la variabile peggiore, non, io mi ricordo qualche anno fa, era il crollo della fiducia sul debito del paese. Le banche hanno molti titoli di quel paese, l'Italia, diciamo, certo, in caso di scuola. Cosa fai tu se dovesse lo spread italiano arrivare a 500-600 punti? E questo però riguardava il singolo paese. Qui prefigurano come scenario peggiore l'incertezza. Esattamente. E vorrei ricordare quello che ci ha detto appunto Mario De Aglio nel rapporto della Fondazione Einaudi 2 settimane fa: l'incertezza è molto peggio del rischio nell'individuare questa età come età dell'incertezza, perché il rischio comunque cerchi di calcolarlo. Ho il rischio del 30% che crolli sto soffitto, ho il rischio del 20% di prendere una multa, cioè hai un calcolo sul rischio, e ci sono i famosi risk manager. Esattamente. E l'incertezza non si calcola, l'incertezza è uno stato dell'animo, diciamo. L'incertezza deprime qualunque attività economica, deprime non solo il commercio internazionale, l'incertezza, ma deprime gli investimenti, e noi sappiamo quanto contano gli investimenti per i paesi, soprattutto come il nostro, che ne hanno estremamente fame. Però attenzione, la cosa principale è quella che dicevi tu, qui cominciamo a inquadrare l'incertezza come un fattore strutturale. Sì, quello è. Non è più congiunto o episodico, come l'abbiamo vissuto noi nel nostro passato, adesso comincia a entrare stabilmente nei fattori da cui si derivano, da cui derivano le previsioni e questi scenari come gli stress test. È veramente sintomatico, credo, di tutto il quadro che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, dalla questione delle guerre commerciali, le tensioni con l'Iran, la Brexit, cioè anche l'aspetto del sovranismo e il protezionismo. Tutti questi fattori sono il pane dell'incertezza. Noi stiamo nutrendo l'incertezza al punto che la stessa BCE fa un esame sulla tenuta del sistema bancario europeo basato sull'incertezza. Sì, io poi sono anche più radicale di te, io ritengo che proprio l'età dell'incertezza sia l'età che stiamo vivendo, ci dovremmo abituare ad avere, come dicevi tu, un'incertezza strutturale. Guarda, vi faccio un esempio, lo chiamano new normal questo, no? Ma nel new normal, io guardavo adesso gli algoritmi sui titoli di Stato, come per l'altra volta, addirittura prevedono per noi, questi sono algoritmi, attenzione, non sono raccomandazioni d'acquisto, ma secondo il ritmo attuale prevedono per l'Italia addirittura la possibilità che nel marzo 2021 possiamo avere i tassi negativi. Ma su quali basi? Beh, base è che se tutti sono peggio di noi, non risultiamo migliori. È come una classe il somaro che batte il cavallo. Ed è una classe in cui iniziassero ad andare male i primi della classe, quello che abbiamo visto, o meglio, il modello tedesco va in panne perché va in panne il modello basato sul commercio globale, grazie agli scontri Cina-Stati Uniti. E quindi il modello, diciamo, cinese si dimostra molto fragile, e qui potremmo fare ragionamenti per ore e ore e ore anche su... Ma vedi, soprattutto anche l'incertezza cinese, come la misuriamo adesso l'incertezza? Guarda, io vedo sempre, ad esempio adesso si discute molto sull'attendibilità dei dati che ci danno i cinesi. Questo aumenta l'incertezza, non sappiamo, anche le fake news, quando si è detto che era creato in laboratorio il coronavirus. Cioè, lì non aiuta il fatto che la Cina non sia una democrazia, lo dico, però andremo troppo in là. Comunque. Però ecco, quello che bisogna dire è questo: prepariamoci a convivere anche noi con l'incertezza, come? Con la prudenza. Io credo che questo sia il modo migliore. Sì, tu sai che c'è chi dice, adesso poi la chiudo, che proprio nei periodi di incertezza, di caos, di imprevedibilità, diciamo, il popolo italiano sia il popolo più adatto a vivere. Perché noi abitiamo in un paese in cui quando tu esci di casa non sai esattamente quanto tempo ci metterà a arrivare al lavoro. Possono essere di un quarto d'ora o 40 minuti, hai un'incertezza di carattere burocratico che raccontiamo per chi fa impresa, hai un'incertezza delle volte anche nella pressione fiscale effettiva, hai un'incertezza su quello che sarà del tuo governo. Cioè, noi viviamo, se questo è il secolo, l'età dell'incertezza, beh, è il secolo l'età dell'Italia. La dico con una battuta per tirarci. Ma speriamo che ci tiri su veramente un attimo su. Grazie anche a Alessandro Paterotti. Ora andiamo sulla borsa, più 0,12% Milano, grazie soprattutto a Exor per le voci insistenti che vada a vendere partner Re, valutata circa 9 miliardi di dollari. Male invece il gruppo Fiat, cioè le controllate di Exor, Fiat Chrysler meno 1,80% e Case New Holland meno 2,20%. E beh, insomma, ne abbiamo appena parlato con Gianprimo Quagliano, il timore è su tutto l'approvvigionamento della filiera dell'auto. Per il resto bene anche dopo i conti Azimut più 3%, bene anche Nexi più 3,5%, male invece Saipem più meno 1,30%, Eni meno 1%. Il commento dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per commentare la giornata di borsa che, dicevo, vede alcuni casi. Exor in primis più 4,1%, qui continuano ad arrivare voci sulla trattativa in esclusiva per la cessione da parte di Exor, che è la holding della famiglia Agnelli, di Partner Re, e avrebbe come compratore il gigante delle mutue francesi Covéa. Le fonti stimano un valore intorno a 9 miliardi di dollari. Partner Re è un gruppo di riassicurazione americano, cioè sono polizze per proteggere, reassurance classica, riassicurare altre polizze. Allora, parliamone subito con i colleghi di Radio Corri Sole 24 Ore, Enrico Miele, buonasera. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, Partner Re è quello che entusiasma Exor, sul fronte opposto il peggior titolo invece è sempre della Galassia Agnelli, ma si chiamano, sono due, Case New Holland -2,20 e Fiat Chrysler -1,80. Esatto, per quanto riguarda Exor, l'operazione con Covea, che come anticipavi tu avrebbe messo sul piatto circa 9 miliardi di dollari, rappresenterebbe una plusvalenza di oltre 2 miliardi, visto che la holding degli Agnelli aveva acquistato la società nel 2016, al termine tra l'altro di una scalata ostile partita l'anno precedente, per 6,9 miliardi. Al conto finale bisogna sottrarre anche i 660 milioni di dividendi staccati da Partner Re da allora, e quindi questa operazione viene vista dagli analisti nell'ambito di una strategia di diversificazione degli asset, e soprattutto la cessione aumenta l'appeal anche del titolo di Exor nell'ambito di possibili operazioni di fusione, insomma anche alla luce dell'operazione FCA Peugeot e del piano di spin-off di CNH. Invece CNH e soprattutto Fiat Chrysler, Fiat risente, diciamo, di quanto abbiamo parlato nella prima ora, cioè tensioni sull'approvvigionamento della componentistica nell'industria auto come conseguenza del coronavirus. Esatto, sì, in realtà i due titoli si sono mossi poi in sincrono con il resto del comparto europeo, visto che l'allarme in Cina, come anticipavi tu, si traduce in un allarme per tutto il mondo, la lunghissima catena della fornitura e della subfornitura di componenti, insomma parliamo di meccanica e metalmeccanica pura, e oggi c'è la notizia che Volkswagen ad esempio ha ritardato la programmata riapertura inizialmente prevista per oggi dei suoi stabilimenti cinesi perché ha una joint venture con un costruttore asiatico, quindi ovviamente questo manda in fibrillazione gli operatori, perché si teme che gli effetti del virus possano essere più a lungo termine di quanto inizialmente stimati. Ora vedo, io capisco che il campionato è quanto mai esaltante quest'anno, che ci sono tre squadre che si contendono lo scudetto, che anche sabato e domenica sono arrivate numerose novità, però guardate che la Juventus non sta crollando, qualcuno mi chiede, no, ha chiuso con un più 0,22%, era debole lungo tutta la seduta. Molto forte la Lazio oggi, che è il secondo miglior titolo in assoluto, più 10,60%, altre squadre non sono quotate. Non so come sarebbe andato l'Hellas oggi, per esempio, ma non è quotata in borsa. Al di là della battuta, andiamo avanti con gli altri titoli di maggiore capitalizzazione. Nexi. Allora, Nexi sì, nel corso della seduta ha avuto un buon ritmo sul fronte degli acquisti, alla fine ha chiuso come seconda più 3,4, e questo andamento è legato soprattutto all'ufficializzazione la scorsa settimana dello sbarco a Piazza Affari da parte di SIA. Questo in che cosa si traduce? Sì. Si traduce in una possibilità di operazioni straordinarie dopo la fusione, anche di la quotazione anche di SIA per tutto il settore, anche perché il presidente di Cassa Depositi e Prestiti ha detto che dopo lo sbarco in borsa SIA valuterà acquisizione ed aggregazioni, e il pensiero ovviamente corre a Nexi perché i due settori sono contigui. Allora, questo per quello che riguarda appunto la crescita di Nexi. Andando su altri titoli, bene Banca Generali più 2,44%, bene anche Moncler più 2,60%, Azimut, abbiamo detto i conti soprattutto di Azimut, no? Sì, si sono mossi bene sia Azimut e sia Banca Generali, che dopo aver dato le cifre, una della raccolta e l'altra dell'ultima trimestrale, sono state premiate dal mercato. Bene, anche Prismian più 1,80, ST Microelectronics più 1,20, Recordati più 1, Buzzi Unice più 0,90. Negative, dicevamo, oltre a Case New Holland, Fiat, Saipem e Medeni, anche Leonardo meno 0,90, Telecom meno 0,80, Pirelli meno 0,80%. Vorrei chiudere tornando sui migliori e peggiori, perché oltre al risanamento più 11,5, la Lazio più 10,60, c'è anche il credito valterinese più 9,80. Esatto, sì, è stato un esplorare soltanto l'istituto di credito migliore, e la settimana scorsa Lovaglio, l'amministratore delegato, in conference call presentando i risultati dell'anno e dell'ultimo trimestre, ha parlato in crescita, li ha definiti la base per un ritorno al dividendo nel 2021. E quindi c'è stato, insomma, un sussulto del mercato davanti a questo annuncio non scontato da parte di Creval, perché poi testimonia che anche gli istituti di dimensioni minori stanno, nonostante uno scenario di tassi bassi, insomma, ritrovando la strada della redditività. Sempre sui migliori e peggiori, diamo anche i peggiori. A tra i migliori c'è anche TripAdvisor più 8,70 ed H-Farm più 7,30. Peggiori, Illa meno 6,70, Italia Independent meno 5%, Mondo TV France meno 5% anch'essa. Grazie anche a Enrico Miele di Radio Colle e Sole 24 Ore. Dopo il traffico andremo sui dati italiani che sono relativi al 2019, ma pongono, ahimè, un'ombra, proiettano un'ombra sul 2020, perché è uscito oggi il dato dell'Istat sulla produzione industriale, ne abbiamo parlato in apertura, vi torneremo. Anche qui è difficile dire mal comune mezzo gaudio. È vero che è andata malissimo in Germania la produzione industriale a dicembre, che è andata male e anche peggio dell'Italia la produzione industriale in Francia a dicembre, però poi il dato complessivo sul 2019 della nostra produzione industriale fa meno 1,3%, è il dato peggiore da 6 anni. Di nuovo lo ripeto, perché si fosse perso la prima parte del programma, l'elemento principale si chiama industria degli autoveicoli, meno 14% l'anno scorso la produzione di autoveicoli, e il quarto trimestre abbiamo fatto meno 1,4% sulla produzione industriale. Questo nel giorno in cui l'Ufficio parlamentare di bilancio unisce il dato sulla frenata e quindi l'ingresso debole nel 2020 a quanto è accaduto a gennaio con il coronavirus, e dice: attenzione, sullo scenario macroeconomico italiano pesano fattori di rischio fortemente orientati al ribasso, e prevede per quest'anno una crescita modesta, lo 0,2% come l'anno scorso, e non lo 0,6% stimato dal governo. E il governo deve iniziare, a mio avviso, anche a ragionare di questo, oltre che parlare di prescrizione. All'ascoltatore che mi dice: ormai il traffico è la parte più interessante della trasmissione, e infatti adesso glielo stiamo per dare. Traffico, così anche lei si interessa. Focus Economia. No, sorrido perché molti, giustamente, non si può sempre parlare dell'incertezza, dell'età dell'incertezza, stanno commentando la domenica calcistica. Guardate, c'è un programma che si occupa di questo, lo fa molto bene, con Carlo Genta, Pardo, Capuano, tutti convocati. Qui ci occupiamo di economia e vedremo, vinca il migliore. Dicevo, crescita modesta dello 0,2%, e qui vorrei già proiettare il dato sul 2020, sulle iniziative che deve prendere il governo, al di là delle polemiche sull'IVA. Devo dire, Gualtieri ha detto proprio dal Forex che si è tenuto a Brescia, organizzato da Radio Corre sulle 24 ore, ha detto: attenzione, dalla spesa per interessi, cioè dal calo dello spread, dai minori interessi che dovremo pagare sul debito, vi saranno risparmi per 3 miliardi di euro rispetto a quanto non avremmo pagato in precedenza, e vi sarà un recupero dell'economia nel primo semestre dell'anno. Il governatore della Banca d'Italia, invece, sempre dal Forex, ha detto: attenzione, sulle stime del PIL vediamo rilevanti rischi al ribasso, anche se è ancora difficile stimare l'impatto del coronavirus sull'economia italiana. Le nostre proiezioni, pubblicate nell'ultimo bollettino economico, precedenti quindi alla diffusione del dato sul PIL, prefigurano una crescita ancora molto contenuta quest'anno, dopo la sostanziale invarianza nel 2019. Ma più elevata nel prossimo biennio. Su questo scenario gravano rischi a ribasso rilevanti. Ai fattori di rischio si sono ora aggiunte le possibili ricadute della diffusione del nuovo coronavirus, specie sull'economia cinese, che negli ultimi anni è stata uno dei principali motori della crescita mondiale. L'effetto sull'economia italiana delle misure adottate in tutto il mondo per far fronte, per contenere il contagio, non potrà che essere negativo. Sulla base dell'esperienza della SARS, pure originata in Cina, e delle elasticità tra le grandezze macroeconomiche stimate sulla base dei dati storici, l'effetto potrebbe essere temporaneo e contenuto per l'economia europea e quella italiana in pochi decimi di punto percentuale di minore crescita della domanda aggregata. Non si può però escludere un impatto più significativo. Così appunto sia il Ministro dell'Economia che il Governatore della Banca d'Italia dall'evento organizzato da Radio Core, il Sole 24 Ore di Forex, che si è tenuto a Brescia. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'economista, nonché direttore del Master MBA dell'Università Bocconi di Milano, Francesco Daveri. Buonasera, professore. Buonasera. Dunque, mettiamo assieme le cose. L'industria ha fatto nel 2019 il dato peggiore da 6 anni. A dicembre hanno frenato tutte le produzioni industriali principali d'Europa. Ripeto, l'Italia ha frenato, ma ha fatto anche peggio la Germania, -6,8%, e la Francia -3%, se riesco. La Coldiretti fa sapere che nella produzione industriale l'alimentare è andato in controtendenza, ha fatto +3%, grazie soprattutto all'export, sempre il dato di, in questo caso, di Federalimentare, perché nei primi nei 2019 ha fatto un +3% complessivo, grazie appunto soprattutto ai numeri dell'export. Sembra di capire che fa tutta la frenata da Veri sia arrivata soprattutto al comparto automotive, che ha fatto un -14% nel 2019, e l'ingresso, e l'ufficio parlamentare di bilancio dice: beh, se questo è quanto, cioè la velocità con cui siamo entrati nel 2020, più c'è il rischio forte rallentamento economico per il coronavirus, non si andrà oltre lo 0,2%. Vorrei un primo commento su questo e poi sulle politiche che dovrebbe attuare il governo, ma iniziamo dalle previsioni. Indubbiamente, come dire, oggi non è stata una gran bella giornata in termini di numeri che sono arrivati da nessuno, da tutte le parti, quindi non si può ovviamente chiudere gli occhi sul fatto che dicembre è stato un mese molto brutto per l'industria. Era peraltro previsto, perché il dato dell'inchiesta che raccoglie le opinioni dei manager degli acquisti, PMA e PMI, aveva segnalato un crollo verticale a un valore di 41, che è molto più basso del 50, che invece è quello che garantisce più o meno una crescita zero. Ecco, la produzione industriale è scesa notevolmente in dicembre, come un po' si stavano, della qualcosa stavano rendendo conto anche i manager che fanno gli acquisti, sono quelli che vedono poi un po' tutta l'attività dell'azienda. Quindi questo è il dato sicuramente negativo di dicembre. Gennaio, sempre guardando però lo stesso indice, questo PMI prodotto da Markit, dà un numero che è migliore. Quindi non è che voglio a tutti i costi trovare degli elementi di ottimismo, però bisogna continuare a guardare i dati. Prima dell'arrivo della SARS, del coronavirus, c'era un tentativo di trovare un nuovo ottimismo, si vede con il nuovo anno, insomma, con varie componenti. Sì, anche per l'accordo tra Pechino e Washington sui dazi. Sembrava. Quindi c'erano gli elementi di positività che adesso bisogna vedere se sono stati frustrati subito a causa, e il timore è che in effetti i numeri di febbraio possono essere peggiori rispetto a quelli registrati per gennaio, però insomma chiaramente con i numeri di adesso, cioè proiettando il 2019 sul 2020, che è quello che si fa, indubbiamente i numeri che vengono suggeriti sono della crescita zero, se va bene, anziché lo 0,6 che dice il governo. Però nello stesso tempo io starei attento a trarre delle indicazioni troppo no, ma io non voglio essere troppo drastico, però siccome, diciamo, ragioniamo con l'ottimismo della volontà e con però il pessimismo della ragione, per dirla con Gramsci, allora qui immaginando che non vi siano elementi positivi ma si mantengono 0,2% su quest'anno, cioè crescita zero come dice l'ufficio parlamentare di bilancio, il che vuol dire introdurre e contemplare l'effetto coronavirus, ma senza estenderlo, diciamo, al blocco delle attività. Ecco. Che cosa dovrebbe fare il governo? Perché qui, insomma, vedo che si ragiona molto su l'unico stimolo all'economia che io posso immaginare, da Veri, se frena, se continua a essere debole il settore auto, frena l'export per tutto un insieme di dinamiche, è l'investimento interno, lo so che sono noioso, più ancora della riduzione delle tasse in busta paga, perché non hai certezza che questi soldi vengano spesi. Il governo dovrebbe muoversi su una, per non arrivare insomma alla finanziaria tardi, su una finanziaria, diciamo, di stimolo alla crescita. E ripeto, gli unici stimoli che io conosco così immediati sono gli investimenti. Sì, gli investimenti pubblici, lo sottolineava proprio anche Visco nel suo intervento tra venerdì e sabato, sono la voce mancante, perché nonostante tutti i proclami, nonostante tutte le affermazioni di centinaia di miliardi che sono lì che aspettano per essere spesi, di fatto gli investimenti pubblici sul PIL sono ancora il 2% in Italia, ci sono solo altri due paesi europei che spendono di meno in investimenti pubblici, ce n'è uno che spende come noi, che è la Germania, ma se c'è un indicatore su cui non dobbiamo imitare i tedeschi è sicuramente quanto investono loro, perché loro investono poco sulle loro infrastrutture ed è un loro grande problema. Ed è anche un nostro grande problema. Noi abbiamo i ponti e le autostrade che non funzionano, i ponti che cadono giù, poi avremo anche da digitalizzare, completare, diciamo, la digitalizzazione della pubblica amministrazione e anche rendere intelligenti, ancora più intelligenti, diciamo, le varie reti. Tutte queste cose richiedono soldi, bisogna metterli lì prima che fare il reddito di cittadinanza, nel proteggere l'ennesima categoria da proteggere, che sicuramente verrà trovata. Sì, lo dico perché che non vuol dire non ridurre le tasse, soprattutto non si riesce a fare, e a mio avviso in questo momento, poi sono d'accordo anche con chi mi scrive, guardi che però se non parte la Germania noi cosa possiamo fare? Ognuno faccia il suo. La Germania, come ricordava lei Daveri, ha gli investimenti pari al 2% del PIL, che sono bassissimi, ancor meno giustificabili in Germania, visto che hai avanzo di bilancio, avanzo commerciale stratosferico, quindi non c'è nessuna giustificazione, non è neanche un problema di conti pubblici come ha l'Italia, di debito e di deficit che non è certo vicino a zero. Però intanto iniziamo a farlo noi, poi è ovvio che non ripartirà mai l'area euro se la Germania non si mette in testa di fare più investimenti, di uscire da questa logica tutta, diciamo, guidata dall'export e dall'export in Cina, dagli accordi con la Cina. Temo che la Germania dovrà fare un bel ripensamento su questo, visto quello che sta capitando in Cina. Senta, ma lei, visto che siamo ancora inizio anno, sullo 0,2 di oggi diffuso dall'Ufficio parlamentare di bilancio, lo ritiene realistico, lo ritiene pessimistico o addirittura ottimistico? Ma con i numeri di oggi, cioè oggi non è un buon giorno per sollevare questa domanda, perché verrebbe da dire che in effetti lo zero sembra il meglio che possiamo avere, però poi alla fin fine l'economia è fatta di tante cose, anche l'economia italiana è fatta di tante cose, capacità di esportare per esempio in America, e l'America continua ad andare insospettabilmente bene, è fatto anche di questo, ci sono tanti imprenditori italiani che sono riusciti ad andare a vendere, a produrre, ma oppure a vendere producendo qui negli Stati Uniti, che continua a essere un'economia che tutto sommato va bene. Non tutta l'Europa è cresciuta a zero, la Germania va male, la Francia molto di più, la Spagna continua a crescere, insomma il quadro è più variegato, quindi aspetterei ad aprire l'ombrello. Sì, abbiamo già detto nel passato che un vantaggio del modello produttivo italiano, che ne ha tanti di svantaggi, la burocrazia, la pressione fiscale e quant'altro, però che la dimensione delle nostre imprese fa sì che assomiglino di più, diciamo, abbiamo fatto l'esempio con la Marina Militare, più che alla corazzata tedesca, diciamo alle fregate, alle corvette, agli incrociatori. Cioè sono un po' più agili nello spostare anche elementi produttivi e mercati di sbocco rispetto ai colossi tedeschi, o qualunque colosso che ha più difficoltà a riorientare produzione, stabilimenti e soprattutto mercati di sbocco. E quindi da questo punto di vista c'è maggiore flessibilità nel modello produttivo italiano. Grazie anche a Francesco Daveri, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, da Sebastiano Barisoni. Comunque anche questa sera l'auguro di una buona serata.